Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Barbaramente assassinato un professore francese, la rabbia e l'orgoglio di Parigi. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Samuel Paty a donc été décapité de manière épouvantable en pleine rue ce 16 octobre à 300 mètres de son établissement scolaire. Un acte qui se fait un attentat mais ignoble, inadmissible, qui va tout foutre en l'air. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Un buon inizio di settimana da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Taglia, Valentina Tennullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, domande e commenti. Siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. La lunga pagina di Nessun Luogo Lontano che vi proponiamo quest'oggi prende le mosse dalla barbara uccisione e decapitazione di Samuel Paty, 47 anni, sposato, un figlio, insegnava storia e geografia in una piccola scuola alla periferia nord-ovest di Parigi. Il presunto assassino Abdullah Zorov, classe 2002, 18 anni, cittadino russo, nato a Mosca, di origini cecene, ma con status di rifugiato in territorio francese. E poi l'istigatore, mettiamolo tra mille virgolette, un imam, Abdelhakim Sefrui, origine marocchina, classe 1959, un personaggio particolarmente ambiguo e complesso, membro del Consiglio dell'Imam di Francia, un'associazione che però non ha alcuna valenza dal punto di vista giuridico. Questi sono i tre personaggi che, in un caso evidentemente suo malgrado, sono stati ripresi da tutti i giornali francesi per tutto il weekend. Quello che proveremo a fare oggi in questa puntata di Nessun Luogo Lontano è capire quanto quella minaccia del terrorismo islamico sia ancora presente in una Francia colpita tante volte, ma questa volta ci sono dei dettagli e delle differenze che cercheremo di mettere luce, oltre naturalmente alle possibili soluzioni. 349-238-6666 per voi, e intanto noi sfogliamo i nostri dossier internazionali così vediamo cosa è accaduto di altro in questo weekend. Mentre sfoglio i nostri dossier internazionali, intanto devo dire che invidio l'ascoltatore il più veloce di quest'oggi, che già mi rintuzza, tra virgolette, abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno. Gentile ascoltatore, se mi fa andare in onda con l'intera trasmissione, poi potrà contestare eventualmente i contenuti, perché ammiro la velocità e la prontezza di riflessi, però proviamo a entrare nei contenuti e poi capiremo. Ho messo tra virgolette l'istigatore perché non è provato dal punto di vista giudiziario, quindi il video che Abdelhakim Sefrui ha fatto, ha girato, è qualcosa di incomprensibile e ributtante. Detto ciò, per il momento, finché non è confermato. Dicevo, dossier internazionali, lo ripeto, sono fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che sono state puntate in Nessun Luogo e lo diventeranno, molto ragionevolmente, come quella sul Nagorno-Karabakh, perché ieri sono ricominciati gli scontri tra Armenia e Azerbaigian, con Baku e Yerevan che si accusano vicendevolmente di aver violato il cessate il fuoco. Cessate il fuoco fragilissimo, perché in precedenza i due paesi avevano rilasciato una dichiarazione congiunta confermando quella tregua. Nonostante i numeri sono fortemente influenzati dalla propaganda, lo abbiamo sottolineato tante volte, pare che almeno 710 persone siano morte nella regione contesa da quando, lo ricordiamo, il 27 settembre sono ripresi i combattimenti tra forze azere e armene per quello che era, una volta lo si definiva, conflitto a bassa intensità, e adesso è riesploso con tutta la sua drammatica violenza. Un interessante articolo del prestigioso quotidiano britannico The Guardian rilancia l'allarme sulla pericolosità del terrorismo. Ancora una volta questo è il tema al centro del dibattito, quantomeno mediatico, ma stavolta terrorismo interno e stavolta negli Stati Uniti. La minaccia del suprematismo bianco nel paese grave e intensa, scrive il prestigioso giornale. Ricorderete lo sventato rapimento della governatrice democratica del Michigan, le nuove rivelazioni che sostenevano che anche il governatore della Virginia era sotto tiro, i vari arresti e il direttore dell'FBI, Christopher Wray, che ha dichiarato al Congresso, risale a qualche mese fa, questa dichiarazione, che le violenze estremiste di matrice razziale e etnica sono diventate la fonte primaria di incidenti letali di origine ideologica negli Stati Uniti. Questo pericolo, pensate, ha messo in ombra anche la minaccia jihadista, che è quella che invece in questo momento attanaglia, se non l'Europa intera, quantomeno la Francia. Il 2019 è stato l'anno che ha registrato più casi dal 1995. I suprematisti bianchi sono stati responsabili di 39 morti su 48 vittime uccise per ragioni appunto ideologiche. Ieri, domenica, è ufficialmente scaduto l'embargo sulle armi imposto all'Iran, nonostante gli Stati Uniti abbiano tentato un paio di volte almeno di ostacolare la revoca da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio stesso ha respinto le richieste, sostenendo l'assenza di qualsiasi base legale. Sostanzialmente cosa significa? La scadenza di questo embargo permette a Teheran di tornare ad acquistare o vendere armi convenzionali, quindi carri armati, missili, aerei da combattimento. Ricorderete, la fine di questo divieto, che dura 13 anni, è parte della risoluzione 2231 del Piano d'Azione Globale Congiunto, un accordo firmato nel 2015 che diede parecchio sollievo alle sanzioni iraniane in cambio di limiti al programma nucleare. Gli Stati Uniti, poi lo ricorderete, si erano ritirati nel maggio del 2018 e da quel momento hanno messo nel mirino anche i settori finanziari iraniani per quel braccio di ferro che si combatte tra Washington e Teheran ormai da parecchio tempo. Una legge europea sugli accordi con l'Iran, separata dall'embargo internazionale, rimarrà però in vigore fino al 2023. In una recente intervista il ministro della difesa iraniano Amir Khatami ha detto che l'Iran venderà armi solo a paesi che non ne abuseranno e le impiegherà rigorosamente ai fini di difesa. Questa, diciamo, la selva di dichiarazioni e controdichiarazioni e lo stato dell'arte del diritto internazionale. Quello che ci preme sottolineare ancora una volta è che qui c'è un vero e proprio fallimento della diplomazia con un Iran assolutamente isolato, che se non vi fosse il superattivismo della Francia nel cercare di farlo uscire dall'isolamento, ricordiamo ancora una volta che a pagarne le conseguenze sono sempre e comunque le popolazioni. In Bolivia si è votato ieri nel paese sudamericano per eleggere il nuovo presidente. Secondo gli exit poll, Luis Arce avrebbe vinto le elezioni presidenziali al primo turno, 52.4% dei voti. Arce era il candidato del Movimento per il Socialismo, partito politico dell'ex presidente Evo Morales, che attualmente è in esilio. La presidente boliviana di interim Jeanine Añez ha riconosciuto oggi, pur in assenza di dati ufficiali, la vittoria a Arce, chiedendogli via Twitter di governare pensando alla Bolivia e alla democrazia. E a proposito di elezioni, in Nuova Zelanda si è votato sabato, sono arrivati i risultati, lo sapete, c'era Jacinta Ardern che se la vedeva con il partito nazionale dell'opposizione, con la Collins. Ha stravinto la Ardern, quasi il 50% dei voti in un sistema semiproporzionale, ma si è garantita sostanzialmente la maggioranza dei seggi, tanto che il suo partito laburista potrebbe essere il primo partito neozelandese a sostanzialmente guidare il paese da solo, senza bisogno di alleanze o di coalizioni. Interessante le parole. In queste puntate, in Nessun Luogo Lontano, abbiamo spesso attuato questo forse bizzarro parallelismo, se non fosse per la lingua, cosa comune insomma gli Stati Uniti con la Nuova Zelanda in termini di PIL, di dimensioni, di quanto si conta anche nello scacchiere internazionale. Beh, però i dibattiti presidenziali televisivi, o per i leader diciamo televisivi, sono stati connotati da una serie di magnifiche stoccate intrise di fair play, parlo del caso neozelandese, e l'Ardern anche nel caso di vittoria ovviamente ha contribuito a sottolineare e a dare maggiore solidità a questa sua immagine. Ardern ha ringraziato i neozelandesi dicendo: viviamo in un mondo polarizzato, spero che con questa elezione la Nuova Zelanda abbia mostrato che noi non siamo così, siamo troppo piccoli per perdere di vista la prospettiva degli altri. Questi i nostri dossier internazionali, fatti e notizie dai quattro angoli del globo, prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso però andiamo a Parigi. Muslims are peaceful and tolerant people. I musulmani sono pacifici e tolleranti. And have nothing whatsoever to do with terrorism. E non hanno niente a che vedere col terrorismo. Jefferson and John Adams had their own copies of the Quran. Jefferson e John Adams avevano una copia del Corano. Generations of Muslim Americans helped to build our nation. Generazioni di musulmani americani hanno contribuito a creare la nostra nazione. You cannot split the Islamic terrorism from the Non si può separare il terrorismo islamico dal mondo da cui si è originato, e cioè il mondo dell'Islam. Basta dire che l'Islam è pacifico. È semplicemente ridicolo. Thousands of people marched in cities across France in tribute to Samuel Paty. Migliaia di persone stanno marciando per le strade della Francia per ricordare Samuel Paty. Notre compatriote. Il nostro compatriota a été lâchement attaqué. È stato attaccato in modo vigliacco. A été la victime. È la vittima d'un attentat terroriste. Islamist. Di un attentato terrorista islamico. Siamo molto toccati da quello che è successo al nostro collega e c'è molta paura. Sì, siamo spaventati. Faremo fronte comune. Non l'avranno vinta. L'obscurantismo. L'oscurantismo e la violenza che lo accompagna non vinceranno. Adieu. Monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de... Questa è la copertina 90 secondi per raccontarvi il tema di quest'oggi e raccontarvi anche di che cosa parleremo e cosa è accaduto, soprattutto ieri a Parigi, Place de la République, dove era anche Danilo Ceccarelli. Buongiorno, in diretta da Parigi. Danilo, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno, buongiorno a voi. Ieri una manifestazione ha raccolto tanti parigini che con grande compostezza, da quello che ho letto, ma poi confermami tu, hanno anche rispettato le disposizioni anti-Covid. Non era certamente quello il loro primo pensiero, cuore e testa non rivolti ad altro. La barbara decapitazione di Samuel Paty, un insegnante la cui colpa è stata quella di aver affrontato il tema della satira anche su temi religiosi, aver mostrato le caricature di Charlie Hebdo, quelle famigerate ormai di qualche anno fa, una classe, qualcuno l'ha presa male, molto male, malissimo, è circolata qualche segnale che le cose non stavano andando bene in rete, poi è arrivata quella che qualcuno ha definito una fatwa da parte dell'imam Abdelhakim Sefrui, un personaggio controverso e molto discutibile, e poi un giovane ceceno si è fatto alcune decine di chilometri dal nord, se non erro, della Francia, si è procurato delle armi, ha pagato, pare, alcuni compagni di classe, studenti, che conoscevano il professore per farsi indicare chi fosse e poi lo ha barbaramente ucciso. Danilo Ceccarelli, partiamo però dalla piazza e dal sentimento dei parigini di fronte a questo ennesimo attacco. Esattamente, qui a Parigi migliaia di persone si sono radunate a Place de la République, che ricordo che è la stessa piazza dove nel gennaio del 2015 avvenne un altro raduno sempre spontaneo subito dopo gli attacchi al settimanale di Charlie Hebdo. Quindi Place de la République un po' il simbolo di questi momenti di raccoglimento. Confermo l'atmosfera di compostezza che regnava durante il raduno, presenti anche alcuni esponenti politici sia del governo come il primo ministro Jean Castex, ma anche dell'opposizione, soprattutto di partiti di sinistra. E intanto poche ore dopo, verso le 18, sì, sempre ieri, all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron riuniva il consiglio di difesa. Adesso Macron vuole passare l'azione per dare prima di tutto un segnale ai francesi, ma anche per rispondere alle critiche ricevute dai partiti di opposizione. E proprio questa mattina sono arrivati i primi annunci di prime decisioni prese durante questo Consiglio della Difesa. Tra queste ci sono ad esempio un maggiore controllo negli istituti scolastici, controlli anche sui social network, considerati come un mezzo particolarmente sensibile per, questo, per, questo tipo di, per questo tipo di episodi. Poi il ministro dell'Interno questa mattina ha anche annunciato lo scioglimento di alcune associazioni considerate vicine agli ambienti dell'Islam politico, tra queste c'è Barakasidi o il collettivo contro l'islamofobia, si tratta di due associazioni da tempo oggetto di forti critiche e polemiche qui in Francia. Quindi vediamo dopo primo momento di shock, di commozione, cominciamo a vedere le prime reazioni da parte delle istituzioni. Sì. State ascoltando La Voce, il racconto di Danilo Ceccarelli da Parigi, giornalista, collaboratore di Red 24, scrive anche sull'Huffington Post, segue le vicende parigine, ultimamente costretto a seguire evidentemente una cronaca che continua a tingersi di attacchi di matrice terroristica e islamica. L'ultimo particolarmente cruento, ma qui è una mia personalissima opinione, al di là della barbara modalità con la quale è stato condotto, della meticolosa scrupolosità con la quale l'assassino ha compiuto le sue indagini, e poi il fatto che è stata colpita la scuola, quella scuola che dovrebbe essere uno dei grandi baluardi di democrazia e di consacrazione e consolidamento di quello che è uno dei cardini dello Stato francese, cioè la laicità. Per quello, così rispondo a un ascoltatore, parlavo di orgoglio proprio nei titoli, perché la Francia immediatamente, quasi spontaneamente, si è riunita con grande compostezza, ma allo stesso tempo chiedendo al presidente francese Emmanuel Macron di prendere delle contromisure. Danilo, leggendo le risposte, il tweet di Emmanuel Macron dopo questo orrido omicidio, mi sono reso conto che c'era molto molto sgomento, cioè sostanzialmente molti dei messaggi dicevano dovete fare, non dovete solo parlare. E il momento della parola forse è finito. Ecco, fare però che cosa? Perché 200 e qualcosa, adesso non ricordo quanti, potenziali terroristi dovrebbero essere rimandati, rimpatriati immediatamente per sospette attività appunto estremiste. Come si fa a controllare però tutta la Francia? Beh, in questo momento appare evidente che le istituzioni stanno agendo un po' in fretta, in furia, anche sull'onda dell'emozione di questo ennesimo attentato che, come giustamente dicevi, ha colpito la classe degli insegnanti, che è stata definita da Macron subito dopo l'attentato, quando è andato sul posto, la colonna vertebrale della Repubblica. Macron non ha mai posto il tema della sicurezza al centro del suo mandato, anche per ovvi motivi elettorali, visto che la sua principale sfidante resta Marine Le Pen. Visti questi ultimi episodi, ricordo che questo si tratta del secondo attentato nel giro di pochi giorni, dopo quello avvenuto nei pressi della ex sede di Charlie Hebdo. Quindi il tema del terrorismo che torna prepotentemente e potrebbe avere un forte impatto politico. Ricordo che le prossime presidenziali in Francia si terranno nel 2022. Il presidente Emmanuel Macron all'inizio del mese aveva presentato una proposta di legge nell'ambito della lotta all'islamismo radicale, un testo molto atteso che dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri il prossimo 9 dicembre. Macron aveva preso del ritardo, accumulato ritardo nel presentare questo testo che, come era facilmente prevedibile, è stato accompagnato da una pioggia di critiche. Dopo il Consiglio della Difesa ieri, molti media si dicono certi che questo testo sicuramente verrà inasprito con nuove misure. E staremo a vedere quali saranno. Intanto grazie mille Danilo Ceccarelli, penna e voce da Parigi. Danilo, buona giornata e buon lavoro. Tanti messaggi al 349-238-6666, come naturalmente immaginavamo confezionando questa puntata. Il tema è molto molto delicato. Uno degli ascoltatori credo che vada, non dico al cuore della questione, però si pone una serie di domande interessanti, ed è Max che scrive al 349-238-6666. Le vignette sugli ebrei degli anni 30 erano libertà di espressione, erano affermazioni di laicismo o erano razzismo? Come le leggiamo oggi? Fin dove si può arrivare in nome della provocazione? Ed è possibile che una legge dello Stato vieti certe vignette? Ed è possibile porsi questa domanda senza che qualcuno ci imputi la volontà di giustificare dei terroristi assassini? Mentre in Francia si combatte per il valore della laicità, forse dovremmo cercare anche di essere noi molto molto laici nell'affrontare questa situazione. Attenzione, non per qualche buonismo, così prevengo immediatamente qualche messaggio che so già arriverà livoroso al 349-238-6666. perché soltanto con grande neutralità, con grande sobrietà possiamo capire il fenomeno e poi eventualmente immaginare cosa dovrà fare la politica per circoscriverlo. E per capirlo vi propongo due ospiti gratitissimi e saranno molto molto utili nella discussione. Il primo, Filippo Spiezia, magistrato, autore di Attacco all'Europa, edito da PM, vice direttore di Eurojust. Vice direttore Spiezia, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, saluti a tutti. Allora, Filippo Spiezia è un magistrato, si è occupato di mafia, quest'oggi ci darà una visione un po' più grandangolare, parlando di Europa, non soltanto di Francia. Lui che è esperto di contrasto alle grandi criminalità, compreso anche il terrorismo. E poi per andare nelle pieghe di come la società possa essere permeata da certi benefici messaggi, Stefano Allievi, sociologo, esperto di Islam, insegna sociologia all'Università di Padova. Stefano Allievi, buongiorno e ben ritrovato qui nel suo luogo lontano. Buongiorno a voi. Allora, professore, con lei parto, professor Allievi, perché molti messaggi al 3412386666 battezzano immediatamente quello che è accaduto, un fallimento della Francia, è il segnale di quella che viene indicata da molti come scontro di civiltà. È corretto vederla in questo modo? No, temo di no, nel senso che se noi usassimo lo stesso criterio tutte le volte che un nostro ragazzo delinque o fa qualcosa che non va bene anche in famiglia, ed è un fallimento del sistema familiare. No, non è così, è semplicistico e come dire, anche risponde a una logica che è quella di colpevolizzarsi nel declino dell'Occidente, il tramonto dell'Occidente, è un secolo e mezzo che ci sono libri che ci raccontano il tramonto dell'Occidente, sì. Ma ancora non si è realizzato, al punto che sono altri che vengono da noi più che non il contrario, quindi può dire che così tramontante non è. È il segnale di un problema che c'è, questo sì, ma un problema legato in parte alle migrazioni, in parte appunto al pluralismo culturale, che è il vero tema che ci mostra che la società è cambiata, no? Per cui ci sono contrasti di valori e che bisogna imparare a gestire da tutte le parti, sapendo dove sono i limiti, come dire, nella possibilità di parlarne, non parliamo dei limiti drammatici che esprime il terrorismo, certo, e altri di questo genere. Insomma, no, la tramonta dell'Occidente è lontano, se verrà la rapa dal primo tempo, ci sono passati. Allora, professor Stefano Allievi, intanto la linea non ci sta soccorrendo, allora io torno immediatamente da Filippo Spezia, magistrato, vice direttore di Eurojust e adesso scrittore, perché il nuovo volume Attacco all'Europa è un atlante del crimine che ci fa capire meglio che cosa sta accadendo in Europa e come la criminalità organizzata e non solo costituisca un serissimo problema. Leggendo velocemente alcune pagine del suo libro, vice direttore, mi sono reso conto che lei punta il dito soprattutto sul le falle dell'intelligence francese. Il giovane ceceno non era nel mirino dell'intelligence, eppure si è attivato e ha colpito con successo. È un errore dell'intelligence francese, oppure i cosiddetti lupi solitari o i singoli sono davvero così difficili da monitorare, nonostante una certa attività anche sui social precedentemente a questo attacco? Allora, intanto grazie per l'invito a partecipare a questo dibattito. Mi consenta proprio in premessa una precisazione, sì. Visto che dobbiamo fare, come dire, della precisione anche la cifra delle nostre comunicazioni. Io non sono vice direttore di Eurojust, sono il membro nazionale italiano e vicepresidente dell'agenzia. Il direttore da noi a Eurojust si occupa di gestione amministrativa. Ha fatto bene a correggermi e chiedo scusa per precisare questo dato, che sì. Proprio per la precisione della sì, comunicazione. Sì, sì. Allora, sì, io direi che intanto riceviamo la comunicazione dell'autorità francese, secondo cui appunto questo soggetto adesso si è responsabile del gravissimo omicidio, non era noto alle fonti di intelligence. Certo è che con riferimento ai precedenti gravi attentati che hanno colpito la Francia, gli stessi francesi hanno riconosciuto che si trattava di soggetti che erano comunque noti al circuito non solo di intelligence ma anche al circuito giudiziario, perché avevano precedenti per fatti di criminalità anche comune, e quindi una delle falle che certamente è emersa con riferimento al sistema di contrasto, prevenzione e contrasto francese, ma direi a livello europeo, come ho evidenziato anche nel mio libro, è appunto la mancanza di una tempestiva circolazione di informazioni tra tutti coloro che avrebbero dovuto sapere, conoscere e mettere a implementare delle misure di vigilanza. Certo. Ecco, qui la prevenzione è fondamentale, questo è il punto. E mentre noi, ecco, poi ci interroga come mai in Italia il numero, diciamo, l'Italia poi registra un'esperienza molto più, come dire, positiva. Eh sì, molto molto diversa. Però Filippo Spezia, io la interrompo un attimo, andiamo a sentire come stanno reagendo le borse in queste ore e poi torniamo, perché siamo partiti dall'attacco alla Francia, ma gioco forza a parlare di attacco all'Europa. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, ancora una volta una buona giornata. Quest'oggi proviamo a ragionare e a raccontare quello che è accaduto da venerdì in poi in Francia, la decapitazione di un professore, Samuel Paty, 47enne, in una scuola alla periferia nord-ovest di Parigi, colpevole di aver mostrato e aver cercato di spiegare ai suoi allievi di 13 anni cosa significasse la libertà di stampa, la libertà di opinione. Mostrò le vignette di Maometto poche ore dopo, sostanzialmente un omicidio attuato da un cittadino ceceno che risiedeva però in Francia, ha fatto ripiombare la Francia appunto nell'incubo del terrorismo islamista. Con noi Stefano Allievi, professore di sociologia all'Università di Padova, esperto di Islam, e Filippo Spiezia, magistrato, vicepresidente e membro italiano di Eurojust e autore di Attacco all'Europa, edito da PM, fresco di pubblicazione, che analizza proprio alcune delle minacce che stanno in parte mettendo sotto scacco il vecchio continente. Prima della pausa, Filippo Spezia, lei ci stava raccontando di come l'Italia in qualche modo si sia fino adesso salvata da questo genere di minaccia. Tornando al fatto che al di là del minor numero di foreign fighters, cioè di cittadini italiani che si sono spostati nei nuovi teatri di guerra in Iraq e in Siria e quindi hanno ricevuto addestramento e indottrinamento per poi passare alla fase di attacco, alla fase di attuazione della minaccia terroristica, da noi hanno funzionato e continuano a funzionare bene misure di prevenzione che noi già abbiamo sperimentato positivamente nella nostra esperienza antimafia. Certo. È stata una scelta felice quella del legislatore di estendere il momento del controllo di prevenzione con le garanzie ovviamente della giurisdizione ai reati e al fenomeno terroristico. La vicenda accaduta in Francia si sollecita anche, secondo me, un altro punto molto delicato che è posto anche all'attenzione un po' di tutti quanti noi, e cioè che questa azione è stata preceduta da messaggi postati sui social network in cui in qualche modo il professore è stato esposto alla vendetta, e quindi c'è il problema di un tempestivo intervento sui social per la rimozione di messaggi, di contenuti o a contenuto apologetico o che addirittura possono integrare fattispecie di reato, istigazione diretta alla commissione di attività criminose. Oggi il più potente alleato di ISIS dopo la sua disarticolazione territoriale non v'è dubbio che è il web, quindi questa è la frontiera su cui si appuntano anche gli ulteriori sforzi in atto a livello europeo per migliorare la risposta. Questo è l'allarme e allo stesso tempo l'invito che ci lancia Filippo Spiezia, lo ricordo, magistrato, adesso anche scrittore, membro europeo di Eurojust, vicepresidente Attacca l'Europa, è il suo libro che ho qui per le mani. Prima di tornare a Stefano Allievi, sociologia ma anche studi sull'Islam, Università di Padova, vi faccio sentire la voce di Bernadette Sauvager, giornalista di Liberation, specialista in tematiche religiose. L'ha raggiunta pochissimi minuti fa. Antonio Talia ha chiesto che cos'è il valore della laicità per il popolo francese quest'oggi, quel valore che è stato messo duramente sotto attacco venerdì sera. Sentite. La laicità è alla fois une philosophie, un concept politique. La laicità, dice Bernadette Sauvager, è allo stesso tempo una filosofia, un concetto politico e un provvedimento giuridico. Dunque parliamo di qualcosa di complesso, dice la giornalista. Ritengo che oggi, dopo l'omicidio di matrice terroristica nel quale è stato ucciso il professor Samuel Paty, la laicità per il popolo francese che è sceso in piazza significhi soprattutto proteggere la scuola e lo spazio dell'insegnamento da qualsiasi ingerenza religiosa fondamentalista. Laicità significa costruire uno spazio nel quale ognuno può vivere, dibattere, anche essere in disaccordo, ma proteggendo tutti da influenze religiose estremiste. E ribadisco, questo vale soprattutto per gli spazi scolastici. Un espace où chacun peut vivre. Allora, questa è la voce di Bernadette Sauvager, collega di Libération, specialista di tematiche religiose, vado allora da Stefano Allievi, sociologo dell'Università di Padova. La repressione è una parte. Che cosa serve in più per evitare che quella che per noi è una banalissima lezione sulla libertà di espressione, pur Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Alcuni ascoltatori lo scrivono, quelle vignette non erano particolarmente di buon gusto, ma detto ciò, cosa serve alle società, non solo quella francese, per anestetizzare questi rigurgiti di violenza o quantomeno combatterli? Ecco. Ma quello che serve in qualunque fenomeno, mi viene da dire, educativo, cioè servono certo repressione laddove si manifesta la devianza, diciamo così, prevenzione in termini securitari, questo ne ha già parlato Filippo Spiezia, ma anche quindi l'intelligence eccetera eccetera, ma soprattutto processi di inclusione, cioè che le persone non siano, non vivano da separata. Allora c'è una quota di non solo di mondo islamico, ma di immigrazione in Francia e anche altrove, che vive, come dire, in quartieri separati. Noi una delle grandi differenze, oltre alle capacità di intelligence, di prevenzione eccetera, è che da noi non esistono le banlieue come ci sono in Francia, non esistono le Molenbeek come in Belgio, cioè quartieri dove da tre generazioni si vive su criteri in qualche modo di separatezza e di mancata inclusione, perché grande fallimento che i tassi, per esempio, di occupazione o di dropout scolastici, cose del genere, sono molto ma molto più alti in tutti questi quartieri. Cioè, paradosso che tra l'altro in Francia sono nominalmente cittadini come gli altri, ma fattualmente gli chiedono i documenti quando sbucano col metro nelle fermate del centro. E ad altri no, e quindi non c'è un'inclusione reale. Da noi una delle cose che ha funzionato molto è che, per esempio, c'è una presenza molto meno nelle grandi città, molto di più nelle città medie, piccole, persino zone rurali, dove c'è controllo sociale, dove ci si conosce personalmente, quindi si collabora tra l'imam, il parroco, la stazione dei carabinieri eccetera. C'è un rapporto, come dire, più friendly e inclusivo. Infatti l'islam italiano lo chiamo un islam dialettale, perché poi si manifesta propriamente con gli accenti dei rispettivi luoghi e con i costumi. Ecco, questo funziona e questo in parte manca in una società che l'ha vissuta in maniera fortemente ideologica, sia l'inclusione che la Francia ha teorizzato e praticato, ma anche in termini di laicità. La laicità francese esiste solo in Francia, cioè un'idea, per così dire, ideologica, ma il problema non è quello, il problema è tutelarsi dalla violenza terribile che si è vista. Allora i processi di inclusione, di integrazione sostanziale contano evidentemente molto, molto di più e sono anzi quelli decisivi, lo diremmo, di qualunque argomento, anche delle subculture camorriste o mafiose o anche banalmente delle baby gang. Allora io proporrei, professor Stefano Allievi, ci segniamo io e i miei ascoltatori, ma anche invito a farlo Filippo Spezia, un paio di parole chiave, perché su queste ragioneremo tra pochissimo. Da un lato inclusione o emarginazione, se preferite il contrario, e poi periferie, perché questo forse è un altro aspetto. Tra pochissimo, peraltro, vi faccio sentire anche la voce di un politico, Patrice Magneron, area di centrodestra, Avant-Garde Ensemble pour la France, candidato a sindaco nel comune di Hachicourt, siamo nel nord della Francia. Zone particolarmente depresse, zone dove quei fenomeni potrebbero accadere, potrebbero ripetersi, e metteremo un tassello anche strettamente politico su come si potrebbero gestire certi fenomeni. Mentre Stefano Allievi parlava, mi veniva in mente Molenbeek, mi veniva in mente Saint-Denis, sempre nord della Francia. Al 349-238-6666 un ascoltatore scrive: ho discusso 5 tesi di laurea sull'argomento, una proprio su questo. I retroscena sono molto complessi, però è tutto annunciato da tempo. Ma chi dovrebbe vedere non vuole vedere e chi dovrebbe capire non vuole capire, punto, come sempre, punto. Questo è uno dei tanti contributi che arrivano al 349-238-6666. Questo però, se mi consente il gentile ascoltatore, mi sembra di leggere un passo o quantomeno una recensione di un libro di Michel Houellebecq. Cioè mi sembra ci sia una sorta di, come dire, di deriva e di appoggiarsi ancora a quella lente dello scontro di civiltà che concordavamo con Stefano Allievi. L'Occidente sotto attacco forse non è esattamente la lente giusta da utilizzare per capire cosa sta accadendo e capire come evitare che fenomeni di questo tipo accadano ancora una volta. Ve lo ricordo, Samuel Paty, 47 anni, un insegnante, un baluardo della laicità francese, parlava delle vignette, secondo molti, diffamatorie di Charlie Hebdo su Maometto, e molto ragionevolmente, per questo vedremo le indagini, per questo è stato barbaramente ucciso. Siamo con Stefano Allievi, sociologia, professore di sociologia all'Università di Padova, con Filippo Spiezia, magistrato, vicepresidente di Eurojust, membro italiano della stessa organizzazione, autore di Attacco all'Europa, edito da PM. Come promesso, vi faccio sentire un tassello, quello politico. Arriva con la voce di Patrice Magneron, politico dell'Avant-Garde e Ensemble pour la France. Lui sta lanciando un programma economico per una delle aree più depresse della Francia. In che misura povertà e condizioni sociali alimentano la radicalizzazione? Sentite. Il y a deux réponses possibles à votre question et elles sont complémentaires. La pauvreté, oui, effectivement, quand vous êtes plus pauvre, parce que le libéralisme. E come sentite, il politico dice: ci sono due possibili risposte a questa domanda e sono complementari. La povertà, sì, perché magari certe politiche iperliberiste hanno colpito duro, magari perché si è stati sfortunati o perché le famiglie oggi non vengono aiutate abbastanza. Quindi, se si è più fragili, si può cadere più facilmente in una certa forma di religione o radicalismo. Questo è vero, ma il secondo aspetto, a mio avviso, e così parla Patrice Magneron, politico dell'Avant-Garde Ensemble pour la France, centro-destra, la legge sulla laicità prevede esplicitamente che lo Stato non debba finanziare alcuna confessione religiosa. Questo per i musulmani è un problema vero, perché quando la legge è stata pensata nel 1905, l'Islam era evidentemente poco presente in Francia. Quindi, alla fine del colonialismo, negli anni 60, ci siamo trovati con onde di immigrazione, tra cui immigrazione islamica, che non è sostenuta dallo Stato. Allora sono subentrati finanziamenti anche dall'estero, che non sono esattamente di provenienza molto chiara. Ultimo aspetto, conclude il politico, al di là della povertà, è che non ci sono controlli sui finanziamenti religiosi all'Islam oggi in Francia. Questa è la voce di Patrice Magneron. Filippo Spiezia, anche questo è un aspetto importante, cioè come una certa militanza islamista politica finanzia le proprie attività e quanto è tracciabile a questo punto? Questo è un aspetto fondamentale, ovviamente, quello della tracciabilità delle forme di finanziamento a gruppi, a cellule che hanno per obiettivo il compimento di atti terroristici. E consideriamo che oggi questi soggetti utilizzano forme di comunicazione, di trasmissione del denaro, del valore, non attraverso i circuiti classici, tradizionali, sistema bancario, ma attraverso i sistemi hawala, sistemi fiduciari. Tutto sì, questo è un fattore di enorme complicazione. Ma io vorrei anche ritornare sul punto che ha sottolineato il professor Allievi, che condivido totalmente, cioè il tema della radicalizzazione, che è strettamente collegato al tema, al problema dell'utilizzo del web, all'utilizzo dei social network per l'attività di incitamento al compimento di atti terroristici, perché è chiaro che questa attività sul web poi trova terreno fertile in soggetti che sono stati radicalizzati o che sono praticamente raggiungibili e sensibili al messaggio. Ora, la normativa francese è lacunosa proprio su uno dei principali hub della radicalizzazione, quello delle carceri. Pensate che il sistema francese prevede ancora che, nel rispetto del principio di laicità, il deferente spirituale musulmano del penitenziario non possa contattare di sua iniziativa detenuti per evitare il proselitismo. E quindi è chiaro che in questo scenario i carcerati sono portati a chiedere di trovare altrove il proprio referente spirituale in base alle proprie aspettative. Io direi che questo è l'esatto opposto di quello che accade in Italia, dove l'intervento della nostra struttura penitenziaria, della competente amministrazione del DAP, è stato lungimirante proprio nel prevedere una collaborazione, cercare una costante collaborazione con, diciamo, nelle migliori espressioni dell'Islam, sì, per avviare una forma di dialogo, certo, e ne abbiamo visto veramente gli effetti. Certo. Quindi il problema evidentemente non è quello di negare la laicità dello Stato, il problema non è né quello di tutelare una regione in particolare, ma a mio avviso quello di mettere in essere le garanzie affinché uno Stato democratico offra una base di convivenza per tutte le culture che si sviluppano al suo interno, per evitare un'implosione del sistema liberale. È certo, chiaro che questo viene fatto, andrà fatto tenendo conto delle specificità dei propri sistemi culturali e valoriali, ma non possiamo negare che i tessuti sociali, per come li abbiamo conosciuti decenni scorso, sono profondamente cambiati oggi proprio a causa dei fattori di immigrazione. Certo, e questo è il suggerimento, l'invito, l'analisi di Filippo Spiezia. Torno a Stefano Allievi, perché il dottor Spiezia ha toccato dei punti sui quali lei, professor Allievi, lavora da parecchio tempo. Per esempio imam, per esempio strutture carcerarie, esiste una buona pratica? Allora, in chiusura, abbiamo un minuto e mezzo. Sì, sì, esistono, la formazione, noi come Università di Padova abbiamo dei master e dei corsi di formazione per imam, per quelli che potremmo chiamare cappellani del carcere, musulmani, eccetera. Sì. E funzionano, nel senso che le persone che si formano in università laica, pluralista, eccetera, e che poi la testimoniano nelle loro attività sociali, sono leader associativi e altro. Insomma, abbiamo ormai, dura da un po' di anni, ne vediamo anche gli effetti. Però al di là di questo è importante quello che si diceva prima, cioè i processi di inclusione presuppongono la mano durissima per quanto riguarda bloccare il terrorismo, anche solo le dichiarazioni, certo, terroristi, certo, il monitoraggio web, quelle robe lì, come ovvio, e tuttavia dei processi, però la parità dei diritti e la garanzia della parità dei diritti delle persone, perché sennò si sentono marginalizzate comunque. Se uno in quanto musulmano, certo, ha lo stesso diritto alla libertà di culto di un cattolico, di un ebreo, di un paltese, come dire, questo non giustifica nulla, e peraltro io non credo neanche che poi c'è molto una povertà, certo, perché sennò sennò, come dire, sarebbero molti di più gli altri terroristi, sennò. Credo, pur facendo il sociologo, evito le spiegazioni sociologiste, troppo sociologiste, ma però al di là di questo c'entra molto invece la pari dignità, l'inclusione, quindi la libertà di culto, quindi la possibilità di costruire moschee, l'intesa con lo Stato alla pari delle altre confessioni religiose, eccetera. Sono passaggi su cui stiamo facendo, come dire, un passetto alla volta, e forse alcuni ci converrebbe accelerarli un po' di più. Poi, come dire, queste cose non spiegano il terrorismo, sono condizioni però perché ci permettono di ipotizzare che ce ne sia di meno. Certo, certo, è su questo che bisogna sicuramente operare, anche con una certa celerità. Io ringrazio tantissimo Stefano Allievi, professore di sociologia, Università di Padova, Filippo Spiezia, vicepresidente di Eurojust, autore dell'ultimo libro Attacco all'Europa. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. E stavolta ci facciamo, come al solito, accomiatare dalla voce che conoscete. You're fired. You're fired. You're fired. Non prima di aver ringraziato tutti voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.